Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Come avrete sentito sicuramente dai nostri GR nel corso delle nostre trasmissioni, oggi un grande incidente a Viareggio e Radio 24 continuerà a seguire aggiornandovi sulle ultime notizie. Accanto a me Massimo Di Scienza, che nel corso della trasmissione, ciao Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci darai un po' il polso della situazione, un giorno difficile, un giorno triste per l'Italia. Vogliamo già dare un ulteriore aggiornamento in questi momenti, sono momenti particolari? Sì, perché c'è un bilancio ufficiale, finora si era andato un pochino a spanne seguendo varie fonti. Il bilancio ufficiale è stato dato qualche minuto fa da Guido Bertolaso, responsabile della protezione civile, che ha parlato di 12 vittime, 16 feriti gravi, di cui 2 bambini e 300 sfollati. Bertolaso però ha anche detto che la situazione di rischio non è conclusa, ci sono 13 cisterne GPL ancora da svuotare, non si esclude che il numero delle vittime possa salire. La procura di Lucca, e questo è un aggiornamento proprio dell'ultima ora, ha aperto un'inchiesta, si indaga su disastro ed omicidio colposo. Allora, naturalmente aggiornamenti nel corso della trasmissione. Massimo Di Scienza rimane qui e entrerà in trasmissione. Oggi avevamo e abbiamo pensato di continuare di tenere il tema del giorno. Voltiamo pagina, parliamo della salute della nostra bocca. Lo facciamo con due esperti, il professor Roberto Weinstein, che è tornato a trovarci qua in studio con me, è ordinario di malattie odontostomatologiche all'Università degli Studi di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo in studio anche il dottor Luca Pizzoni, che è responsabile del reparto di ortognatodonzia e pedodonzia all'Istituto Galeazzi di Milano. Nomi difficili che inquadrano quale tipo di specialista, dottore? Intanto buongiorno a tutti. In sostanza si tratta della materia che si occupa del seguire l'evoluzione della bocca del paziente dai primi anni di vita in poi fino alla maggiore età. E per quanto riguarda in pratica l'evoluzione e l'eruzione dei denti e la crescita corretta delle basi ossee. Quindi in pratica, dottor Pizzoni, a lei affideremo i sorrisi sdentati dei nostri bambini e al professor Weinstein invece affideremo i nostri. Data l'età sicuramente potrebbe essere una cosa corretta. Allora io direi di raccogliere qualche indizio per poter poi raccontare che cosa vedete nella vostra bocca, quale problema avvertite i nostri esperti. Ci aiuta come sempre la nostra scheda, ricordo il nostro numero verde sempre a vostra disposizione, 800 24 0024, i messaggi al 349 238 6666. Se mangi o bevi qualcosa di caldo o di freddo, i tuoi denti protestano? Quando lo spazzolino accarezza le tue gengive, loro come reagiscono? Chiudi la bocca. Ti sembra che qualche dente sia più lungo di altri? Tra i denti noti spazi che prima non c'erano? E dimmi la verità, sorridi volentieri o sei in imbarazzo a mostrare i denti? Professor Weinstein, vuole aggiungere qualcosa, qualche dettaglio importante? Ma direi che la scheda ha presentato bene tutta una serie di problemi. Quello forse meno trattato è l'ultimo, sorridi volentieri. Cioè, oggigiorno avere la possibilità di vedersi bene allo specchio, di stare bene con se stessi, è una componente fondamentale del benessere. E quindi tutto quello che è estetica, cosmetica o comunque apparire piacevoli innanzitutto a se stessi è un elemento di grande importanza e che l'odontoiatra deve, del quale l'odontoiatra deve tenere conto quando si confronta con un paziente. Professor Weinstein, sicuramente questa attenzione la si nota di più nei confronti dell'estetica della bocca, ha fatto avvicinare molte persone anche al dentista. Quindi si va magari dal dentista con l'idea di fare uno sbiancamento, di raddrizzare un dentino, e poi ci si accorge che invece bisogna prima occuparsi della salute della bocca, che non è un dettaglio. È assolutamente una finestra molto importante. Dalla bocca noi possiamo anche capire un po' lo stato generale di salute, e soprattutto dobbiamo occuparcene, perché chi trascura l'igiene e la salute della bocca può rischiare anche grosso. Senz'altro, da un lato osservando il cavo orale si possono scorgere i segni di alcune patologie importanti, ma soprattutto la salute delle gengive è di straordinario straordinaria importanza per la salute generale. Esistono delle ricerche pubblicate negli ultimi tempi che praticamente tolgono ogni dubbio sul fatto che essere affetti da malattie del parodonto, delle gengive, aumenta di molto, praticamente come fumare o come avere la pressione alta, il rischio di andare incontro ad accidenti cardiovascolari, oppure di avere patologie respiratorie, di aggravare il diabete se questo è già presente. Quindi questo oggi lo si sa, non è una opinione, è provato. Le ricerche e gli studi lo dimostrano. Andrei dal dottor Pizzoni per occuparci già subito dei nostri bambini. L'OMS individua nell'uso razionale del fluoro proprio la principale arma di prevenzione della carie, sottolineando che la sua efficacia è tanto maggiore quanto più precoce e costante nel tempo è la sua assunzione. Tradotto in pratica, dato che abbiamo visto anche la carie è una delle malattie della nostra bocca, adesso i dati dicono che sta progressivamente diminuendo, ma naturalmente noi dobbiamo cercare di non far ammalare, tra virgolette, i denti dei nostri bambini. Certo, il fluoro è alla base della prevenzione odontostomatologica per quanto riguarda la malattia cariosa, ed effettivamente in pratica questo vuol dire assumere fluoro per due vie fondamentalmente. La prima è quella sistemica, cioè attraverso le gocce o le pastigliette che si danno già ai bambini o addirittura alle mamme. Alle mamme, è vero? Esatto. A partire da che mese, dottore? In gravidanza? Ma in sostanza dal settimo, ottavo mese, ecco. C'è da dire, adesso farò una precisazione, che si tende a limitare attualmente l'uso di fluoro sistemico. Questo perché il fluoro per via sistemica va a fissarsi nello smalto e nei tessuti dentali in via di formazione, quindi ancora all'interno dell'osso. In realtà poi le più recenti teorie, gli studi hanno dimostrato che il fluoro accumulato in questo modo all'interno dello smalto può essere perso una volta che il dente rompe nel cavo orale, perché c'è un continuo scambio di fluoro e calcio anche tra lo smalto e l'ambiente orale, la saliva. Quindi, per cui, saputo questo, è altrettanto importante, anzi forse adesso più importante ancora, applicare il fluoro localmente una volta che il dente è nel cavo orale. Quindi è molto importante utilizzare i dentifrici al fluoro e i colluttori al fluoro, anche perché si è visto che soprattutto nei paesi in cui c'è un'applicazione, una diciamo disponibilità di fluoro, per esempio attraverso l'acqua o il sale, ci possono essere dei casi di eccesso di fluoro sistemico. Che lei è una bambina di 3 anni, il fluoro glielo dà o glielo fa solamente lavare i denti con il dentifricio? E se, per essere un po' meno medici e un po' più concreti, cosa fa per sua figlia lei? Io sinceramente il fluoro per via sistemica non glielo ho dato. Quindi sistemica, esatto. Vuol dire compressine, goccine, eccetera. Gocci. Ma spazzolino? Spazzolino senz'altro, da prestissimo, prima ancora che inizino a spuntare i denti, proprio perché deve diventare un'abitudine quotidiana, un gioco da fare con i genitori. Bisogna sfruttare la fase in cui il bambino ama imitare gli adulti e ama giocare mettendo le cose in bocca. Andiamo a Giuseppe che ci chiama da Palermo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Nicoletta e buongiorno professore. Io volevo fare questa domanda. Sì. Un anno fa mi hanno estratto un molare. Il dentista, visto che io ho 33 anni, mi ha detto che diciamo che conviene sostituirlo, quindi mettere un altro molare per evitare che la mandibola possa assumere diverse posizioni. Sì. Quindi si può storcere, si può avere dei problemi con la durata del tempo. Cioè, questo è vero oppure posso stare così tranquillamente? Senza il dentino, dice Giuseppe. Esatto, senza il molare. Ma senta Giuseppe, io avevo una nonna che diceva che tutto quello che abbiamo ci serve. Però chiedo al professor Weinstein, se abbiamo i denti ci servono e se non ce li abbiamo più vanno rimessi, oppure possiamo far finta di niente? Allora, l'ascoltatore ha fatto una domanda che riempie i congressi di odontoiatria con diatribe fantastiche. È un problema in realtà è un problema irrisolto, perché ci sono circa metà dei pazienti che, se tolgono un dente, a distanza di tempo hanno i denti vicini alla sede di estrazione che si inclinano e quindi alterano la masticazione, come ha detto correttamente il collega che ha visitato l'ascoltatore. Altri pazienti invece non hanno tutto questo, i denti rimangono diritti per sempre. Noi non lo sappiamo. L'unica risposta che si può dare è che, se si tratta di un dente posteriore, questo va sostituito tutte le volte che per il paziente masticare rappresenta un discomfort. L'assenza di questo dente non lo fa star bene, gli dà la sensazione di masticare male. Allora questa, nelle zone non estetiche, è la principale indicazione alla sostituzione del dente. Rispondiamo a Romeo, che ci scrive da Ancona. Il mio problema è: 2 anni fa mi sono tolto il dente del giudizio. Voi dentisti li togliete sempre i denti del giudizio, ma di questo parleremo, professor Weinstein. Sì, perché un altro bel problema. E intanto chiede ai nostri ascoltatori da casa se i denti del giudizio ce li hanno, come me invece sono senza denti del giudizio. Comunque Romeo dice: nel lato destro superiore il dente del giudizio mi è stato tolto, ma molte volte sento una piccola ma noiosa fastidio simile a delle scosse. Potete aiutarmi? Queste scosse che avverte, insomma, quel giudizio voleva rimanere lì, l'ha tolto e adesso si fa sentire. Professor Weinstein. È molto difficile porre una diagnosi e dare un'indicazione. Sicuramente bisogna verificare se l'atto chirurgico condotto per estrarre questo dente ha indotto delle lesioni neurologiche nei tessuti adiacenti. Questo a volte può succedere e quindi andrebbe visitato il paziente per capire se un danno è presente, se è presente una lesione di tipo neurologico che sembra esserci. Siamo tornati insieme a Essere Benessere. Oggi ci occupiamo della salute della nostra bocca, di quella dei nostri bambini, anche insieme al dottor Pizzoni e al professor Weinstein. Massimo Di Scienza però è qui con me, che ci dà degli aggiornamenti sul terribile incidente di Viareggio che stiamo seguendo. Massimo. Sì, il deragliamento del treno merci è avvenuto poco prima di mezzanotte nei pressi della stazione del centro tirrenico sulla linea La Spezia-Pisa. Il responsabile della protezione civile Guido Bertolaso ha fatto un po' il punto della situazione, ha parlato di 12 vittime e 16 feriti gravi, anche se fonti ospedaliere in questo momento aggiornano il numero delle vittime, che peraltro Bertolaso aveva detto che sarebbero potute salire nel corso di queste ore a 13, quindi sarebbero 13 i morti, 300 gli sfollati. In questo momento la situazione non è ancora messa totalmente in sicurezza, si sta operando sulle altre 13 carrozze che componevano questo treno. Una è deragliata e ha perso il GPL, che poi è esploso. Le altre 13 che contengono a loro volta GPL sono ancora, diciamo così, sui binari e vengono messe in sicurezza, quindi la situazione è ancora potenzialmente molto pericolosa. Peraltro vi rimando all'appuntamento del GR24 delle 12, ci collegheremo di nuovo con il nostro inviato a Viareggio, Ubaldo Cianciulli, per darci una fotografia di quello che sta accadendo in questi minuti. Grazie Massimo. Torniamo a noi. Parlare di denti oggi è veramente quasi un diversivo, no, professor Weinstein? Per me? No, ma considerando... Massimo ci chiama dalla provincia di Milano. Buongiorno Massimo. Volevo fare una domanda al dottore. Sì, noi siamo pronti. La faccia è difficile, però. Sì, vabbè. Io ho un nipotino di 10 anni circa. Sì. Sta rompendo il 13, cioè il canino, ma è molto vestibolarizzato. Allora la domanda è: dobbiamo aspettare che esca un po' di più? E poi quando è consigliabile un'ortodonzia per i bambini? Grazie Massimo. Ma Massimo è un po' un tecnico, professor Weinstein. Molto esperto, vero? Molto esperto, si esprime con un linguaggio tecnico assolutamente tradotto, perfetto. Tradotto, spunta il canino però, dottor Pizzoni? Qual è il problema di Massimo, che così capiamo anche noi? Probabilmente una mancanza di spazio per il canino. Spesso capita che il canino, essendo uno degli ultimi denti a rompere in quella zona, così risenta delle condizioni di scarsa disponibilità di spazio. Che si fa? Si mette l'apparecchio? Sì, sostanzialmente sì. Bisogna... scegliere molto attentamente quello che viene chiamato il timing, cioè il momento più corretto per posizionare l'apparecchio. Sostanzialmente il trattamento ortodontico può essere diviso in due fasi: una prima fase ortopedica, se ci sono anche delle discrepanze a livello scheletrico, cioè le basi ossee, la mandibola e il mascellare superiore non crescono in modo normale, adeguato, ma in realtà hanno una differenza tra loro. Questa fase può essere fatta addirittura molto precocemente per certi tipi di malocclusioni, addirittura verso i 6 anni, più frequentemente viene fatta appena prima o durante il picco di crescita puberale, quindi diciamo attorno agli 11-12 anni. Se invece si parla di un semplice riallineamento dei denti, questo normalmente viene effettuato verso il completamento della permuta dentale, cioè quando abbiamo tutti quando i denti permanenti. Quando i denti da latte sono caduti e sono nati tutti i denti definitivi, di cui poi si occuperà il professor Weinstein. Esatto. Senta, ma ai nostri tempi non mettevamo tutti questi apparecchi, così rispondo ad alcuni sms che mi suggeriscono un po' di mettere sul tavolo anche questo problema. Cioè, c'è un eccesso di apparecchi nei nostri bambini? Li vogliamo tutti col sorriso americano? Assolutamente sì. Devo distinguere da un punto di vista tecnico. Quando io ero un ragazzino, e purtroppo succedeva tantissimi anni fa, si utilizzavano praticamente solo degli apparecchietti mobili, sì, i quali Finivano sul comodino, avevano un'azione modesta e quindi i problemi si risolvevano solo parzialmente, quindi c'era una minor consuetudine nell'utilizzo. Gli apparecchi moderni, quelli fissi che si utilizzano adesso, oppure quelli invisibili che pure si utilizzano adesso, hanno un'efficienza e un'efficacia molto superiori e quindi i risultati che si ottengono sono di grande qualità. Quindi da questo punto di vista c'è una maggior frequenza del loro utilizzo. Dall'altro lato noi sappiamo che c'è una eccessiva medicalizzazione dei problemi. E qui farò arrabbiare il mio collega dicendo che la letteratura scientifica non è mai stata in grado di dimostrare che con i denti diritti si sta meglio che con i denti storti, o meglio, che uno vive di più con i denti diritti. I denti diritti si mantengono più a lungo rispetto ai denti storti. Non c'è nessuna dimostrazione, tranne che per i denti molto vicini, molto affollati, perché in questo caso è difficile pulirli, sì, e quindi tendono a cariarsi con maggiore frequenza. Con questa unica eccezione non c'è una pagina che dimostri in modo scientifico la necessità di utilizzare apparecchiature ortodontiche. Detto questo, esistono tutti i problemi legati alla estetica, legati alla volontà di avere un sorriso adeguato, bello da vedere, che pienamente giustifica il fatto di riallineare i denti, ma non per una miglior qualità dell'articolazione temporomandibolare e non per l'obiettivo di mantenere i denti in bocca più a lungo. Dottor Pizzoni, ha incassato bene? Assolutamente, tra l'altro sono pienamente d'accordo. Allora andiamo a Isabella, che ci chiama da Milano. Isabella, buongiorno. Buongiorno a voi. Isabella, lei è stata del periodo in cui c'erano gli apparecchi mobili oppure è stata già del periodo dell'apparecchio fisso? Ma forse ancora prima, perché francamente l'apparecchio, anche se ne avrei avuto bisogno dal punto di vista estetico per i denti diastemati, sì, in realtà nessuno ti ha mai fatto venire problema. Io ho la mia bella fessura in mezzo. Perché me la sono sempre tenuta. Mi ricordo che c'era un'attrice, Giovanna, ve la ricordate? Cantante. Sì, pensavo a cantante, mi è venuta attrice, aveva questo spazio tra i denti. E aveva un suo fascino. E aveva assolutamente un suo fascino, quindi Isabella è un po' ce la ricorda. Isabella, veniamo alla sua domanda. Ecco, la mia domanda era questa. Io tanti anni fa, oltre 20 anni fa, ho fatto un ponte, all'epoca si usavano i ponti, non gli impianti ancora, nella parte superiore della bocca, sì, della parte sinistra. Dopo una 20 anni ho dovuto rifare anche i denti che stanno sotto, quindi adesso ho queste due parti opponenti della bocca che sono entrambe artificiali. Io non so com'è andata, se ha sbagliato il medico che mi ha fatto il primo lavoro 20 anni fa o quello che me l'ha fatto 20 anni dopo, resta il fatto che la mia bocca, i miei denti si chiudono non nella posizione esatta in cui dovrebbero essere, cioè gli incisivi sopra sono storti rispetto ai denti sotto. Dato che io soffro di mal di schiena e ultimamente ho letto appunto che l'occlusione sbagliata della bocca può portare a mal di schiena, sì. Volevo sapere se è correggibile questo difetto e se effettivamente è un problema avere la masticazione che non è più quella originaria. Grazie Isabella. Allora, il professor Weinstein su questa domanda potrebbe fare un convegno. Sì, l'ho anche organizzato, vede, più di uno. E allora vede che qua ha modo di raccontarci che cosa vi siete detti. Allora tirerò un altro sasso nello stagno come ho fatto prima. Anche in questo caso non esiste nessuna dimostrazione scientifica della correlazione tra l'occlusione, cioè come ingranano fra di loro i denti, e patologie di altri distretti. Non c'è nessuna dimostrazione. Se però succede che una masticazione alterata porta a una contrattura dei muscoli della bocca, è possibile che questa contrattura si estenda a dei distretti vicini. Quindi come una specie di effetto a catena. Ma molto vicini. È solo la patologia dell'articolazione che produce cefalee, contratture dei muscoli della faccia, della testa e del collo, e quindi correggendo l'occlusione questa patologia si risolve. Sul mal di schiena, quindi sulla patologia della colonna, non è stato mai dimostrato nulla. Esistono solo quelle che in termini scientifici si chiamano opinioni personali, che sono valide, rispettabili, certo. Rispettabili, ma non possono essere utilizzate per una generalizzazione. Magari in quel paziente può succedere, ma da questo non si può trarre la regola generale. Le faccio un esempio. Se un paziente ha un'infezione a un polmone prodotta da un certo batterio, noi sappiamo che quell'antibiotico nel 99% dei casi uccide quel batterio. Quindi tutte le volte che si presenta quella situazione si usa quell'antibiotico. Sì. Per quanto riguarda tutto questo è una credenza di alcuni chiropratici che hanno importato dal Belgio questo tipo di impostazione. Sono dei bravissimi esperti, dei grandissimi esperti di mal di schiena, sono in grado di trattare il mal di schiena, e non si capisce per quale ragione solo in Italia abbiano trasferito alla necessità di correggere con apparecchietti l'occlusione per far passare il mal di schiena. I medici sportivi, nella stragrande maggioranza dei casi, sono d'accordo che queste procedure sono totalmente inutili e comunque non basate su una ricerca scientifica. E voglio essere preciso, per ricerca scientifica oggigiorno si intende studi clinici longitudinali, cioè proseguite nel tempo, prospettici, cioè ponendosi davanti il problema e vedendo se quella metodica lo risolve nel tempo, condotti con una metodica che si chiama a doppio cieco, in cui né il paziente né l'operatore sanno che cosa succede e perché si usa. Solo questa è ricerca scientifica, tutto il resto sono opinioni personali, ripeto, rispettabili, ma non generalizzabili alla popolazione. Siamo tornati insieme, oggi ci occupiamo della nostra bocca insieme al professor Weinstein e al dottor Pizzoni, che si occupa invece della bocca dei nostri bambini. Professor Weinstein, ci eravamo lasciati al ponte, sì, della nostra amica che assomigliava un po' a Giovanna, la cantante con, esatto, lo spazietto, che tra l'altro oggi volendo si può chiudere. Sì, si può chiudere, ci sono tanti sistemi, o ricorrendo all'ortodonzia, o cioè spostando i denti, oppure utilizzando delle faccette di ceramica che aumentano il volume del singolo dente, o utilizzando dei materiali compositi che danno risultati estetici di grandissimo livello. Ma il ponte andrà probabilmente rifatto, un ponte fatto 20 anni fa scade. Probabilmente ha un'usura, d'altra parte non è per difendere la categoria dei dentisti acquisti che, come vede, non sempre difendo, però un frigorifero non dura 20 anni, una lavatrice non dura 20 anni, un'automobile. Però se io mi rifaccio un ponte, metto un impianto, insomma vengo dal dentista e qualcosa mi fa. Sì. E io poi avverto un po' di mal di testa, il cervicale, la fatica, insomma, insomma non riesco a non dare colpa al dentista, no. Non colpa, pensare che qualcosa, certo, qualche equilibrio nella mia bocca si è alterato. Questo è sicuro. Allora, dal immaginare che l'occlusione possa produrre disturbi attorno alla zona in cui il ponte è stato inserito, quindi mascellare superiore, mandibola, muscoli della testa, muscoli del cranio che stanno attorno al cranio, muscoli masticatori, questo è sicuramente non solo possibile ma dimostrato. Che la patologia si estenda a distanza come la colonna, questo non è dimostrato. Andiamo a Clara che ci chiama dalla provincia di Bari. Vediamo se Clara ha bisogno del dottor Pizzoni o del professor Weinstein. Buongiorno Clara. Buongiorno, buongiorno. Io avrei una domanda da porre agli esperti. Un ragazzo di 14, quasi 15 anni, sì, e da settembre scorso ha messo l'apparecchietto, quello con le stellette per l'allineamento dei, sì, lenti. In precedenza ne ha messi tanti altri, va bene, fino ad arrivare a questo. Sì. Solo che da settembre scorso, appunto, che ha messo questo apparecchietto, abbiamo notato che frequentemente si ammala di tracheiti, di tonsilliti, cosa che non succedeva in passato, quasi ogni mese più o meno, un mese, mese e mezzo. E allora Clara magari ha pensato che ci possa essere una relazione apparecchietto, magari non si lava bene i denti proprio perché magari si deposita qualche residuo di cibo, perché pulirsi i denti con l'apparecchio è difficile. Lo sanno bene i genitori che hanno i ragazzini con tutti questi ferretti. Dottor Pizzoni, io ho buttato lì, ma magari non è così, mi dica lei. No, certo, diciamo non c'è nessuna correlazione tra l'apparecchio in sé e le tracheiti. Effettivamente potrebbe esserci invece una correlazione tra la maggior difficoltà a mantenere un'adeguata igiene orale, causata proprio dalla presenza dell'apparecchio, e la possibile infezione anche di zone circostanti. Quindi comunque una igiene orale corretta è alla base della salute orale e anche degli stretti vicini. Andiamo nella provincia di Modena, c'è Maria che ci aspetta. Buongiorno Maria, 800 24 0024, buongiorno. Questo è il nostro numero verde, buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Io ho 69 anni, sì, e i miei denti sono tutti sani, tutti belli. Anche brava Maria, no professor Weinstein, si può. Si può e si deve. Si deve, brava Maria, brava. Il problema è a carico delle gengive che si sono abbassate, ma tutte quante, cioè tutto allo stesso livello, tutte bassine. Allora io chiedevo, siccome ci tengo a fare più questi denti, fa bene, certo, che cosa si deve fare? Che cosa posso fare per aiutare queste gengive a risalire un po'? A risalire un po', almeno non diminuire ancora, insomma. Certo, grazie Maria. Professor Weinstein? Ma probabilmente si tratta di uno spazzolamento effettuato con eccessivo vigore. La signora ha tutti i suoi denti, vuol dire che ha sempre mantenuto elevati livelli di igiene orale. Naturalmente i denti vanno lavati con attenzione. Che cosa significa? Significa che un conto è asportare la placca e un conto è distruggere le gengive. Allora lo spazzolino va cambiato periodicamente, ma non troppo frequentemente. Va cambiato non più frequentemente di ogni 4-5 mesi, perché le setole, non è vero che sono arrotondate quando escono dalla fabbrica, sono acuminate o parzialmente acuminate, si arrotondano durante l'uso, e allora se si cambia lo spazzolino ogni 15 giorni avremo sempre setole acuminate che aggrediscono. Se cambiamo ogni 3-4 mesi avremo 15 giorni di setole acuminate e 3-4 mesi di setole arrotondate. Infatti noi nella nostra scheda abbiamo parlato proprio di spazzolino che accarezza le gengive. Certo, deve rimuovere la placca ma non distruggere lo smalto o il tessuto gengivale. Allora, il nostro tempo termina qui, ahimè, torneremo a parlare di denti, tantissime ancora le telefonate, vi invito a scriverci a esserebenessere@radio24.it, inviteremo nuovamente il professor Weinstein e il dottor Pizzoni a trovarci, intanto li saluto. Grazie mille. Saluto anche il collega Massimo Di Scienza. L'appuntamento con noi torna domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.